Io ringrazio le maestranze, ringrazio la struttura che comunque ha fatto di tutto per trattenermi. Già stiamo a Oh, finire. maestranza chi? Comunque mi sposto alla 9. Frate, carissima. La musica si difende anche oggi col sangue nelle orecchie, con la cuffia a cannone, ma va bene così, non ci arrivo a cambiare. Che devo fare? Che devo fare? No, lo facciamo dopo. Intanto sangue nelle orecchie e saluto subito in questo meraviglioso sabato 20 aprile Betta alla mia destra. Buonasera, piccoli nerd. E continuano i saluti con Virginia. Ma buonasera, buonasera, buonasera, ben trovati. E scrosciano gli applausi per The Beautiful Mind, Franci. Buonasera. Che guadagna posizioni, postazioni, anche se a lui piace stare dietro. Anche se a lui piace stare dietro. Ogni tanto cambiare. Potevi pure mettere vicino, invece no, cioè invece, ha dovuto mettere uno spazio tra me e lui. Si è proprio voluto mettere nell'angolino ossessivo compulsivo della nostra redazione. Visto che ci siamo, salutiamo anche la maestra Viola, che non c'è. Ma sì, va bene, dai. Vabbè, se lo meriterà. E a proposito di chi non c'è ma ci sarà, non so, spendiamo comunque un pensiero, non dico un applauso per forza alla combo, però, alla però combo. Ci sono dei giornalisti, dei professionisti che si stanno affrettando verso questa redazione e ancora non sono giunti. E quindi Gabri. Salutiamo Gabri Grubi in arrivo. Gabri. Che comunque vabbè, la saluteremo anche quando arriva, perché tanto ci piace perdere tempo. Soprattutto in queste puntate così che riemergono come funghi dopo tanto tempo di umidità. Bella questa cosa dell'umidità del fungo. Sempre per la puzza de muffa. Per dire che andiamo in onda una volta ogni quando ci pare. E quindi poi cioè abbiamo un tema portante. No, chiaramente ci rivediamo come siamo fatti noi stessi con le nostre tare, dette anche rubriche. Tare dette rubriche. Quindi quest'oggi un purpurri come sempre. Mi piacerebbe chiedere a tutti quanti, ma potete rispondere anche nel vostro cuore, quanto avete rinunciato all'idea di un tema comune dentro di voi, completamente proprio abbandonato. Io sento un vuoto. Tre. Da 1 a. Ah, c'era un 1 a, scusate. No, da 1 a 2. Il vuoto a 2. Va bene, prossime volte temi comuni. Direi ma li scelgo io. Due, direi. Dinosauri. Ma... Questo è un altro tipo di gioco, non è? Questo è tirare l'acqua nel proprio mulino. Sì, hai ragione. Comunque, non è completa questa prima fase senza aver salutato Iron Man, il nostro cyber amico e la sua assistente, sì. Alexa. Ciao, molto belli. Bene, ciao, con questo... abbiamo chiuso i saluti e abbiamo anche un modo di sbarazzarci con della musica sbarazzina di questo momento imbarazzante da Quindi ascensore. Posso annunciare il brano? Sì, perché io ce l'ho scritto, però poi dico delle cose che. No? Chi è l'autore? Che mi sa, no? Ok. Allora, vai. Allora, iniziamo questa roboante puntata con un brano allegrotto e frescotto. Che si chiama Buckle dei Tapes and Tapes. Prego. Ottimo. Maestro. Call me out, call me out, call me out, call me out. Radio Forte 100 Celle Avengers, in questo sabato 20 aprile riprendiamo un attimino l'attualità, sempre col fatto che te fai vivo ogni quando te pare, e quindi fai, cioè, dell'attualità di che puoi parlare. Tu calcola che io oggi parlo della Pasqua, quindi mazza, tutti sul pezzo stiamo. E infatti questa rubrica che si sta per aprire si chiama 100 Celle a Marcord, è un po' appunto il nostro diario dei saggi, dei bei saggi andati, e ancora pozziamo da quest'ultimo passato, perché in fondo non è passato da molto, anche se voglio ricordare sempre l'atmosfera che si deve respirare. Adesso stiamo già pensando all'altro saggio, non siamo più esatto, siamo questo, però vabbè, comunque proiettiamo ancora lo sguardo al passato, quindi adesso ci sarà, sempre con un simpatico scambio di fader, la sigla di 100 Celle a Marcord. Ricordati di te com'eri prima. Un'estate fa. L'anno vecchio è finito ormai. Un'estate fa. Ti ricordi? Un'estate fa. Tutti quanti stiamo già aspettando. Un'estate fa. Messaggio per un nuovo anno. Mi ricordo che anni fa. Un'estate fa. Ricordati di me. Oh, e ovviamente noi la prendiamo sempre dal punto di vista nostro interno autoreferenziale, quindi parliamo degli Opla e degli Oissa, cioè i due gruppi main, diciamo, musica d'insieme, che raccolgono appunto un po' tutti gli studenti, e del quale andiamo ad ascoltare un pezzo per il quale ho bisogno dell'ausilio da casa, anzi da qua vicino, da chilometro zero, ma non prima di aver ascoltato. Scusate, ho sbagliato. No, è assolutamente il momento delle discussioni, delle polemiche. La Barbara. È giusto. Tuttavia. Dobbiamo ascoltare un'altra sigla, ma non per perdere tempo, per ascoltare un'altra sigla. Vedi? Di essere pronta, aspetta. Ho avuto un attimo di sbagliare. Questo per amore delle sigle. Sì, guarda così. Le vere protagoniste di questa trasmissione. Mi siete mancati. Finalmente so qual è il mio posto. E se lo sa Franci? Wow. Franci, tu lo sai qual è il tuo posto? sulla sinistra? Esatto. Sei uno degli Opla, devi dire. Sugli Opla di Opla. Gli Opla di Opla, si chiama sempre diciamo Opla, le cose però, fatte bene. E quindi col nome vero, e quindi andiamo a sentirci Suburbs, In the Suburbs, credo, non mi ricordo, degli Arcade Fire. Ma grande. So can you understand why I want the daughter when I'm still young? I wanna hold her hand and show her some beauty before all this damage is done. But it's too much to ask, it's too much to ask. Just send me a song. Under the overpass, in a parking lot, we're still waiting, it's already past. So move your feet from a pavement into the grass. It's already, already past. Sometimes I can't believe it, I'm moving. Grazie, grazie. Grazie. Radio Forte 100 Celle Avengers, di nuovo in voce. Sembra che il tempo non passi mai, siamo già alla terza rubrica, quando invece andiamo lunghi e quando invece andiamo corti, ma si sente che manca lei. Manca lei. Lei che annuncia dove ci possono trovare, tra l'altro. E che porta i caffè. Oh, è vero, mancavano le. Ecco cos'era questo inizio troppo, troppo leggero. Non potrò farlo io perché non ne ho la più pallida idea. Però noi aspettiamo. La più pallida idea. Cioè, noi nominiamo tutti diciamo dei canali che non funzionano. Quindi li puoi nominare anche un po' a caso. Ci siamo anche su MS-DOS. su MTV. Cioè, su Unix, la versione di 100 Celle Avengers, scaricate l'app. A me piaceva la pagina MySpace. Comunque, l'unica cosa che un pochino funziona il canale Telegram ce l'hanno ormai tutti, e tra l'altro c'è questa notifica, no, che ti arrivano sempre se un tuo amico si fa Telegram, te lo sai, vero. No? Vero. E te subito però ormai si moltiplicano, ormai sono tutti su Telegram, quindi vi posso dire semplicemente andate nella sezione canali, quelli passivi, quelli che subiscono. Fammelo, lo fa un po' che non ho mai fatto. E trovate Radio Forte 100 Celle Avengers, il nostro canale passivo, passivante. Poi ce n'è anche uno interattivo, un modo per interagire, ma mi chiedete troppo. Se ci fosse lei, sapremmo meglio. Comunque, questo è il modo che avete principale per interagire con noi. Come sei sapiente, maestro. Io non la trovo sta cosa dei canali, però. Mi stai a remo a contro. Sta sullo spammino. Poi casomai facciamo una errata corrige sul firmware, sono quelle cose che uno se imbastisce. Però il concetto era quello. Siamo su Telegram. Fammi fare la precisa. Mia, ecco. Telegram c'ha le notifiche blu e invece WhatsApp c'ha la cosa verde. Questa cosa dei contatti ci sta mettendo gli uni contro gli altri. Dov'è Gabri? Non so da che parte guardare in cagnesco. Metto gli occhiali e dico che potete scriverci sul canale Telegram t.me/100celleavengers, scritto tutto minuscolo. Ah, questo se proprio vuoi beccare, bravo. Ma esatto. Sei troppo bravo. E siamo in diretta su Radio Forte, al link forteprenestino.net/radioforte. Oh. Ascoltateci! Ma Betta, veramente, cioè, non c'è bisogno di nulla. Basti tu. Io ma non è la stessa cosa. Pare che da oggi li dai dei contatti. No! Cosa hai detto? Che cosa brutta. Approfittavo così dell'assenza della giornalista Gabri Grubi, che comunque è in arrivo, eh? Che comunque è in ascolto. Comunque è in ascolto e in arrivo. Buccia scrive e su ricorda Telegram. Tutto, Daniele, ricorda tutto. Porta solo 3 caffè. Bene. Non porta rancore, ricorda. Solo caffè, Daniele. 3 caffè o un rancore? Assolutamente arriverà, io già me lo immagino l'entrata, però no, non voglio rovinarmela così. Sarà più bello con la realtà, con la porta che si apre vabbè, niente. Volevi fare l'imitazione, vero? Sì. Sarà tipo Tempesta degli X-Men. E comunque siamo a un'altra rubrica, rubrica con 2B, legata alla scuola, al contesto, no, al perché siamo qui, che non è appunto i fatti vostri. Ma come no? Sarebbe bellissimo. Sto scalpitando. Ma è appunto le vicende della scuola di musica. C'era questa rubrica che si chiamava la rubrica degli scartati, non so se ve la ricordate. Benissimo. Perché, appunto, è ritornata anche nella scorsa puntata in auge con una nuova, diciamo, un nuovo format, nel senso che questa nasceva come la rubrica dove si facevano ascoltare i pezzi proposti dagli allievi che i maestri ritenevano infattibili, che quindi generavano tutto un malcontento, per cui almeno lo faccio sentire per radio. Infatti mi ha ferita più volte questa rubrica. No, non era proprio così, però insomma, diciamo che davamo voce a questo tipo di pezzi spiegando anche perché non si potevano. Adesso invece nell'ultima appunto abbiamo messo sempre un pezzo di questo nuovo format dove sono pezzi proposti dai maestri che generano una rivolta più o meno condivisa col coltello in bocca, e per cui poi nonostante uno voglia mantenere un po' il polso della situazione, lo perde e li cassa per via delle circostanze. Per cui l'altra volta ce la siamo presa con i poveri Boston, proprio se loro. Vi ricordate, che mamma mia, avessi mai detto. A me ricordavano la Airband, ma vabbè, queste sono cose nostre. Salutiamo, grandi ascoltatori. E invece in questo caso andiamo ad ascoltare un pezzo che comunque quando l'ho proposto ho detto facciamolo, il saggio in fondo è un giorno di festa. Io odio giorno di festa! E quindi non l'abbiamo fatto. E quindi questo pezzo di Gwen Stefani si chiama La Dolce Scappatoia. La Dolce che sì. Su Radio Forte, 100 Celle Avengers. Thank you. way. Cause I've been acting like sour milk, fell on the floor at your function and shut the refrigerator. Maybe that's the reason I've been acting so cold. If I could escape and recreate a place in my own world, and I could be your favorite girl forever, perfectly together. And tell me, boy, now wouldn't that be sweet? If I could be sweet. Sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, veramente non è passata manco la prima mezz'ora di divertimento. E ho una percezione oggi del tempo, ma che qualcuno contribuirà a riallargarmela. Sono sicuro che grazie a Franci, a The Beautiful Mind, Franci, al quale passo la attento linea, a quello che dice. Il già tempo molto carico. Riacquisterà di nuovo il suo. Careful what you wish for, Daniele. Io sono pronto, voi siete pronti a penna e matita, perché adesso si parla di numeri. Si parla, ma soprattutto chi lo dice che le chiacchiere da anticamera di Sala Prove non possono finire qui? E indovinate un po', oggi il vostro hotel preferito avrà il piacere di ospitare al suo interno un po' di chiacchiere che si fanno in anticamera di Sala Prove. Wow. Sigla! Wow. Nel corso della nostra esistenza andiamo alla ricerca di parole che riescano a descrivere adeguatamente le continue perturbazioni dell'ordine e del caos dell'intero tessuto del cosmo. Auspichiamo la conoscenza, la rivelazione, la catarsi. Per questo esiste la filosofia. Ma la filosofia si fonda sulla matematica, e solo la matematica può farci intuire la verità dell'universo. Non avete fatto altro che scrivere tutti i numeri di 216 cifre tentando di decifrarli, di intonarli. Non è vero? Quel numero non è niente. Non siete voi prescelti. L'ho trovato io. L'ho trovato io! E io solo l'ho capito. Sarò io a vedere Dio. Ma mi sembra un po' fuori del programma e poi magari non a tutti interessa. Sì, sì, interessa. Ma sì che ci interessa. Ma lo spieghi, quelli eravamo proprio noi. Invece, capito? Cioè, che ne so, in anticamera si può parlare chi si compra a Roma, chi vince Sanremo. Invece noi parliamo di questo. Noi abbiamo di te. Che noi, sì, esatto. E niente, quindi di che cosa parliamo oggi? Di un argomento di cui, insomma, forse credo che molti hanno già sentito parlare e che mi dà la possibilità di approfondire alcuni argomenti relativi agli insiemi numerici e la correlazione che hanno con il mondo della musica, diciamo in particolare con la scrittura sul pentagramma e delle note che sono suonabili sul pentagramma stesso. Chiedo scusa, c'è un problema che risolveremo innanzitutto con... Voglio il mio sottofondo da ladro di Lupin. Ci eravamo dimenticati l'ABC, scusi maestro. Il sottofondo che è proprio lui. Questo portiamo, sottofondo rilassante. Oh, molto meglio. Sexy. No, perché la matematica va affrontata. Non si così, può fare. Ci vuole... no, abbassa il tono della voce. Mi taccio, prego. Allora, qual è questo problema? Il problema è quello della quadratura del cerchio. Credo che ne abbiate sentito parlare, almeno qualcuno di voi, voglio sperare. Nei modi di dire. Nei voglio sperare. Dire, no? Quando si dice che no, bisogna trovare la quadratura del cerchio, no? Che, cioè, di solito vuol dire che cerchi di trovare la soluzione a un problema che apparentemente non ce l'ha, perché il cerchio non si può quadrare, quindi... È subito spoiler. È subito spoiler del finale, me lo gioco così. Ok, però andiamo avanti con la prossima rubrica. E sigla finale. E pensate un po' che questo problema risale a tempi antichi e viene addirittura citato dal nostro Dante nella Divina Commedia, nell'ultimo canto del Paradiso, e la citazione che fa Dante è la seguente, quindi oggi faccio anche un po' di viola, così sostituisco... Vai che ti deizzo. Mi deizza? Vai. Spero di leggerla bene. Qual è il geometra che tutto s'affigge per misurarlo cerchio e non ritrova, pensando quel principio ond'egli indige? Tal ero io a quella vista nova, veder voleva come si convenne l'imago al cerchio e come vi si indova. Ma come fa? Spero di non aver becchi un Fabio Volo subito proprio. Eccolo là. Allora, ve la parafro, non so se sia abbastanza chiaro il volgare italiano, però insomma sono passati un po' di anni, quindi per chi non è molto pratico, tra cui me stesso, mi ci aggiungo, dice: come lo studioso di geometria si concentra con tutte le sue facoltà mentali per risolvere il problema della quadratura del cerchio e non riesce a trovare quel principio di cui avrebbe bisogno, tale ero io dinanzi a quella straordinaria visione che invano volevo capire come l'effigie umana si adattasse alla forma del cerchio e potesse trovarvi luogo. Questo lo Dante lo dice, diciamo... Ma io ti riapplaudo. Ma come fa? Così. Oggi abbiamo sostituito degnamente viola, spero, questa cosa. Ma come fa? Ti manca un accento. Mi manca un accento. Ti manca l'accento, poi... So. Io aggiungo solo le M a numeri. Infatti ce l'hai il tuo, sì, è vero. E questo Dante lo scrive, diciamo, nell'ultimo canto del Paradiso, quando si trova proprio dinanzi a lui, diciamo, a sua maestà. No, a lui no. No, non l'ha detto Dio. Inizia per di, come dicevano i Profilax, finisce però. No, dopo, no, vabbè. mi fermo. È troppo fermo, professionale. Mi fermo qui. Allora, torniamo al problema. Allora, questo problema era perché era così sentito in antichità? Era per il fatto che il cerchio simboleggiava il divino, mentre invece il quadrato simboleggiava l'immanente, cioè il terrestre. Quindi trovare una soluzione a questo problema significava trovare una connessione tra l'umano e il divino. Ma insomma, ma che è sto problema della quadratura del cerchio? Allora, esso consiste, in poche parole, dato un cerchio, nel trovare un quadrato che abbia la stessa area del cerchio. E voi mi direte, vabbè, fino a qua è una cazzata, che ce vuole? Non è proprio così facile, perché la difficoltà di questa cosa era nei vincoli di costruzione del quadrato. Infatti è necessario utilizzare unicamente come strumenti una riga e un compasso. Vabbè. Calibrabili unicamente attraverso dei numeri naturali. Quindi ti puoi, che ne so, il compasso lo puoi aprire 1, 2, 3, la riga pure la puoi fare 1, 2, 3. Ma perché sta cattiveria aggiuntiva? Okay. Ho una domanda, numeri naturali sono senza virgola? Sono senza, quelli proprio 1, 2, 3, 4, quelli, no, quelli numeri naturali. E una la so. Meno 1, vabbè, quelli sono gli interi. Oh no! però. Ci stavo così bene. Vabbè, 1, 2, no, quelli là. Oh, 1, 2, 3. Non mi spaventare. Vabbè. Perché si utilizzavano solo questi nomi? Perché diciamo, l'utilizzo di questi particolari vincoli trovava il suo senso perché si voleva dimostrare che tramite esclusivamente i numeri naturali si potevano ottenere tutti i numeri possibili esistenti, anche quello per l'appunto dell'area del cerchio, che contiene al suo interno un numero così particolare come il pi greco. Perché l'area del cerchio è... raggio per 3,14. Ah, eh? Raggio per 3,14. No. Raggio... No. Al... È un quadrato? Al quadrato. Il greco era qua. Scusate. Okay. Ecco, mi mancava il quadrato. Siamo, però... Delle questa nella edita, la levi, eh? Io in tutto ciò mi sto mangiando nervosamente le unghie in questo momenti momento. Momenti di imbarazzo. Sono quadrate? Allora, diciamo, allora, i risultati che si possono ottenere con questo metodo di costruzione alla mucciaccia, diciamo, consentono di costruire tante tipologie di numeri, quindi i naturali, i razionali, cioè quelli un numero fratto un altro, ok, e perfino gli irrazionali, cioè quelli tipo radice di 2, radice di 3, quelli che non si possono scrivere come una frazione. E pensare che questi numeri irrazionali erano odiati da Pitagora, che fece condannare un suo discepolo alla morte per affogamento dopo aver rivelato l'esistenza del tanto odiato triangolo rettangolo che c'aveva cateti 1 e ipotenusa radice di 2. Pazzo. Era una cosa che non si poteva dire. Cioè, una volta, adesso noi abbiamo Assange con Wikileaks, una volta c'era Pitagora con le ipotenuse con radice di 2. Cioè, non ho capito, Pitagora era contrario al triangolo rettangolo. Lui non concepiva i numeri razionali. L'ha detto. Non l'ha detto. L'ho detto. Per Pitagora ne vale la pena. E ognuno si diverte come gli va. Ognuno fa come gli va. Cioè, questo ha affogato, coraccio. Ma io non ho capito. Quindi poi c'ha scritto un teorema. C'ha scritto... Prendi un discepolo, prendi un discepolo, affoga. Affogalo e poi scrivi. Cioè. Vabbè, basta, questo è bellissimo. È il famoso teorema di Pitagora. Sì, perché per Pitagora i numeri dovevano essere tutti perfetti, bellissimi. Quindi l'esistenza di numeri che non si potessero scrivere come frazioni era... Ah, oddio, che eresia, tipo... Vabbè, una cosa... Per affogamento. Affogamento. Niente, non si poteva manco... Vabbè. Vabbè. A cattiveria, proprio. Allora, questo metodo però non consente di ottenere un numero quale il pi greco, perché infatti, ad esempio, per ottenere, prendiamo un cerchio facile, quindi un cerchio di raggio 1, ok, quindi con area pi greco, R, uh-huh. 1 al quadrato è 1 per pi greco, è pi greco, ok. Allora, che cosa dobbiamo fare? Dovremmo costruire un quadrato che abbia come lato radice di pi greco. Insomma, che tramite la procedura del compasso della riga non è proprio possibile ottenere, ok? E se ne accorse nel 1892 il matematico tedesco Ferdinand von Lindemann. Grande. Dopo aver fatto fucilare il fabbricatore di compasso. Esattamente. È stato 6 mesi a provare col compasso, non c'è riuscito. Che sta matematica, oh. Che non era. Ma che ha lo stesso cognome del cantante Rammstein, mi pare una coincidenza, io non credo. Vabbè, che dimostrò la trascendenza del pi greco. Il cantante Rammstein, ovviamente. Cioè, che già viveva nel 1892. Cioè, il fatto che diciamo, il pi greco non è un numero algebrico. E qui finalmente capiamo che cacchio vuol dire sta parola algebrico. Che vuol dire algebrico? Lo so sempre io. Algebrico, la parola algebra è una parola di etimologia araba e significa unione, cioè significa diverse cose, quindi unione, connessione, completamento, ma anche aggiustare o ricomporre. Quindi praticamente in buona sostanza i numeri trascendenti non sono algebrici perché non si possono ricomporre a partire da quelli naturali con la procedura ad esempio sopra illustrata. Quindi se voi prendete un compassino e una riga, voi riuscite a costruire tutti i numeri del mondo, tranne i numeri trascendenti. Pensate un po'. Maestro, mi dia un non capisco, per favore. Non capisco. Io ho sempre detto sto 3,14. Pensa che... Non me la contava giusto. Lui ha capito. Occhio che t'affogano. In Indiana... Sì, ma... Questa cosa qui ha destabilizzato l'ordine e c'è stato un parlamentare che aveva proposto di modificare il valore del pi greco. Ma no. E questa mozione stava passando. E l'hanno pubblicato. No, affogato. Affogato. Affogato. Nella Coca-Cola, però. Nella Coca-Cola. Vabbè. Ok, perfetto, quindi siamo giunti alla conclusione che esistono numeri algebrici e numeri trascendenti. Allora, i numeri algebrici assieme a quelli trascendenti compongono insieme dei numeri reali. Quindi se parliamo di tempo, dobbiamo parlare di numeri reali perché il tempo non c'ha buchi, cioè una tipo una sorta di linea continua. Ok. Mentre l'insieme dei numeri algebrici, ad esclusione dei numeri irrazionali, compongono l'insieme dei numeri razionali, cioè quelli che si possono scrivere come frazioni, ok? Entrambi questi insiemi sono infiniti, ok? Sebbene l'infinito dei numeri reali ha una, è più grande, diciamo, di quello dei razionali. In matematichese questo si dice che perché fino a mo' era il linguaggio invece. Vabbè, dai, io hai ragione, scusa. Da Pizzicarolo era. A me serve del sostegno. Morale. Mi dia tre etti di in matematichese. Di greco. Dimmi un po' in matematichese. Mi dia quel pitagorico affogato nell'olio. Tre etti e 3,14. Esatto. Si dice che l'insieme dei numeri reali ha la potenza del continuo, mentre quella dei razionali è quella del numerabile. Che cosa vuol dire nella pratica? Allora, immaginatevi l'insieme dei razionali come una distesa di sabbia infinita, ok? Mentre quella dei reali come un'infinita mattonella, ok? La mattonella non presenta buchi, ok? È tipo un pavimento, cioè è una superficie, esatto, cioè non c'ha buchi. La sabbia sì, per quanto la sabbia possa essere granulosa. Esatto, esattamente. I granelli di sabbia, per quanto insomma io diciamo ne possa mettere tanti, però sono granulosi, li potrei teoricamente contare, ok? Che cosa succede però? Che questi granelli di sabbia sono talmente tanti che io comunque prendo un pezzettino piccolissimo di sta mattonella, io ci trovo almeno comunque un pezzo di sabbia. Quindi vuol dire che in matematichese i razionali sono densi nei reali. Questo era quello che diceva. Adesso vi siete ricordati. Però guarda che cioè non l'ho capito, ma no, potrei averlo capito. Vabbè, chiaro, cioè, potrei capirlo in futuro, okay, con altre 3-4 ore di puntata. Se non altro, è la seconda volta che ci proviamo. Okay. È vero. Ok. Oh, ma come al solito, ma la musica che c'entra? Ecco, in tutto io è vero. Io è lì che mi rassereno. Assolutamente nulla, passiamo. No, non è vero, c'è. Ok, allora, perché le note che noi riusciamo a scrivere sul pentagramma sono quelle posizionabili sul pentagramma solo tramite i numeri razionali, cioè noi le note che mettiamo sul pentagramma sono frazioni, ok? Tutto ciò che non è una frazione io non lo riesco a mettere su un pentagramma perché non lo riesco a contare. Cioè, e questo? No. Esatto. Okay. Ora sono passata dal mangiarmi le unghie al grattarmi il ginocchio. Attenzione che c'è un però in questo discorso, e cioè che nel suonare le note del pentagramma, ovviamente quando noi suoniamo uno spartito, non c'è mai una precisione assoluta. Quindi quando tu andrai a suonare, che ne so, un quarto, un due quarti, un tre quarti, tu non suonerai mai un 0,25 preciso, un 0,50, no? Infatti c'è una mano alzata. Volevo chiedere una precisazione. Stai parlando di durata delle note, non di altezza delle note? Di nota singola, sì, proprio di durata. La durata delle note, esatto. Ok. Sì, esatto. Anche l'altra volta mi ero persa sta cosa, sì, sì, e non ho capito per questo io. Non note legate, cioè proprio note... Sì, sì, non l'altezza della nota, se è un do, un re. No, proprio la durata, okay. Sì, sì. E quindi noi non siamo mai precisi, nessuno è mai preciso, anche il musicista più fenomenale. Però io direi parla per te. Vabbè, io... scusate. Stai lanciando delle sfide. No! Aia! Quindi nessuno andrà proprio a suonare la nota nella sua posizione precisa. Quindi che cosa vuol dire? Che noi, senza saperlo, in realtà, magari potremmo qualche volta suonare qualcuna di queste note proibite, cioè che non sono presenti, che non è possibile scrivere su sto maledetto pentagramma. Noi al laboratorio, noi quando pina top, noi la sta valorizzando, valorizzata, capito? È jazz. Ho preso un pi greco. È trascendente, quando invece di jazz è trascendente. È il jazz della durata delle note, questo, esatto. Perfetto. Quindi vuol dire che nell'errore noi potremmo suonare queste note insuonabili e nell'errore le persone riescono a trovare quell'immanente rappresentato dai numeri trascendenti. Quindi è meglio sbagliare. È meglio male. Capito? Noi siamo riusciti in quello che non riuscivano a fare gli antichi. Sbagliando. Basta col suonato bene. E l'incastro che è successo al saggio, quello del semitono della chitarra. Come funziona? No comment. Ok. Chiudo con una citazione dello scrittore Henry. E che più che altro è un po' una collezione di cose, non credo sia proprio una cosa. Vabbè. E dice: il naturale è rotondo, l'artificiale tutto angoli, la linea retta delle strade e delle costruzioni e le regole dure e implacabili che ne regolano la condotta. Tutto ciò è gelida sfida e irrisione alla curvilinea natura, e pertanto può dirsi che la grande città ha mostrato di saper quadrare il cerchio. Guarda, veramente E allora, visto che si parla di divino, io vi lascio agli Halloween. Era il loro modo di fare una preghierina a Dio? Non lo so. Ma questa canzone si chiama Hey Lord. Il mondo della radio è un pasticcio. Radio Forte, 100 Cell Avenger è molto meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Radio Forte, 100 Cell Avengers, sempre in diretta. È arrivato il rancore! Sì, il caffè! È arrivato il caffè ed è arrivato il rancore! Evviva! Anche Gabri, eh! Riesce anche oggi a salire la scala della redazione con il suo carico di vita. È stato fantastico a metterci tutta me stessa per salire questa scalinata, ma insomma era arrivata già all'inizio di Gilberto, ne vale sempre la pena. Dicevo che è stato bello seguirvi fino ad ora, dalla radio. Complimenti per i contatti Telegram. E grazie. Ecco, mi rendo pure conto che qui all'inizio grandi... Oddio, Gabri, dove è? Dopo 10 minuti già sostituita. Cioè, è così, è il mondo della radio, è un mondo di sciagalli. E quindi, brava, e infatti ecco la savana che... ci accompagna la dura legge della savana. Non è stata la stessa cosa senza di te, Gabri. Mo tutti buoni. So, capito? Infatti, i vestini prima. Che fai, me remi contro? Banderuole. E, io mi sono perso nel tuo arrivo. La decisione di redazione presa al volo. Ci sei tu o c'è? Come volete, io sono pronta. Nel frattempo, posso anche raccontarvi questo simpatico aneddoto. Prego, vai, racconta. E alle 17, ore 17, io mi sono connessa ed è partita una cosa che voi non sapete, ma i nostri ascoltatori e ascoltatrici sanno. È partita la puntata della volta scorsa. Cosa? No. E per qualche frazione di secondo io ho pensato che il caffè l'avesse portato qualcun altro, perché la volta scorsa abbiamo iniziato la puntata con il caffè che si rovesciava sulla regia. Incredibile. Ma dai, diamo un po' di enfasi a questo déjà vu. Ma sì, quindi sì, mi senti sì, che nessuno ti sta sentendo o poi si è ripreso? No, no, poi subito dopo ho detto ma allora qualcuno ha già portato il caffè, e poi subito dopo è partita effettivamente la puntata di allora oggi. È festa. E quindi è festa. Meno male. C'è sempre qualcosa che non va, pure quando siamo perfetti, siamo un quarto d'ora in anticipo. No, è stato niente, bellissimo. Però una cosa che non va. È stato bellissimo. Quindi, va bene. Gabri, vuoi partire direttamente allora, con mi i tuoi contributi? Il cavetto, allora io questa donna siamo pronti, non spoilerare. Cioè, è stupefacente. Il cavetto, la volevo tecnologia. Dire come siamo messi. Che oggigiorno ci permette di collegarci direttamente con il liquido amniotico. Sì, sì, tu fai insomma la presentazione del caso. Sì, era anche questo, diciamo, il senso di questa di questo sottofondo savanesco, savanerrimo, ma soprattutto finalmente di svolgere il nostro dovere di pregenitori che oggi dovevano fare il pre-riconoscimento, ma vabbè, non l'hanno fatto, lo faranno, e quindi preascoltiamo già direttamente dal come dicevo, dal pancione, con la tecnologia che oggigiorno abbiamo, che comunque Betta enfatizza alzando il canale. Figliuolo, ci senti? Ma chi c'è, chi c'è, chi c'è? È già alzato, no? O è Gizio? Filippo, puoi sentirmi? Gizio. Sì, padre. Maestro, non è andata in porto questa cosa. Io non lo sento. Però ci sono un sacco io di sento scimmie. Ivana Spagna. È il momento... che è rinata in questo è momento. È un momento che non sai viverti se non sei presente. Ciao mamma. Oh. Ma questo bambino parla benissimo. È il primo. Ha imparato tutto ascoltando dal pancione. Ma io ho un dubbio che ci sia stato un... C'ha una voce sì, un po' familiare. Un gamba tesa. Vabbè, noi siamo sempre avanti, la redazione di 100 Gioielli Avengers non si smentisce mai, e il primo nascituro, ecco figlio, ecco si sente adesso veramente il suo habitat, le bolle, la placenta, vabbè non entriamo nel dettaglio. Si è spenta la placenta. Comunque, è andato in stand by. L'esperimento è riuscito, anche questa volta abbiamo fatto il collegamento più profondo del mondo. Troppo bravi. E anche nato già parla in radio, grandissimo. Io credo che meglio di noi possa fare soltanto suo nonno. Esatto. Perché tutto sommato questo era un grandissimo gancio che volevamo dare ad Angelo. Ad Angelo che ci sta ascoltando. Che ci segue, sì, che ci ascolta. Fra i mille disguidi tecnici. E di ritorno dalla Sila, da Camigliatello. E ci ha preparato oggi una puntata di artifici fresca, particolare, non anticipo nulla, ci parla di musica e poesia, e quindi se siamo pronti è anche sì, no, del ritmo. Posso anticipare della... Cioè, prego. Comunque mandato un pre-contributo, e quindi dobbiamo prima sì. Ascoltarlo, perché io neanche l'ho sentito, scusami. Ci sono due volte ho fatto un errore terribile, la musa di riferimento non è Erato, è Euterpe. Ora, per piacere, se quando se la mandate in onda poco prima dite che per l'emozione e vabbè, io parlo vabbè, di Euterpe. Ok. So come fare. Iron Man, tu sai cosa fare. Quindi Artifici 55, ci colleghiamo con Angelo. Vai con la sigla. Ma soprattutto con la sigla. Grazie Angelo. Grazie Angelo. Non conoscendo affatto la storia dell'arte. Grazie Angelo. Grazie Angelo. Sempre gradevole, sempre importante. Grazie Angelo. Grazie Angelo. Ma ancora vorresti narrare la storia dell'arte. Buon pomeriggio a tutti, nuova pillola di Artifici, oggi del tutto speciale. Parliamo di musica e poesia e andiamo come al solito all'antica Grecia, dove c'erano 9 divinità, le muse, ognuna delle quali era preposta per una forma di arte. Le muse erano figlie di Giove e di Mnemosine la dea della memoria, quindi imparare delle cose a memoria, ma anche imparare e tramandare la memoria delle cose, che mi sembra più pertinente. È significativo che per musica e poesia ci fosse una musa, Euterpe, e però per la poesia, perché i greci erano molto raffinati, per la poesia c'era anche una musa per la poesia amorosa, Euterpe, da Eros, e un'altra per la poesia epica, Calliope. Ma noi restiamo a Euterpe, quella che contempla entrambe le arti, musica e poesia. Sono connesse perché la poesia è musica e la musica è poesia. Nasce la poesia nasce come e la musica che nascono come canto del capro, sul capro o per il capro, quindi la tragedia greca, da tragos e oide, tragos e capro, oide e musica. I greci e i latini, per realizzare questo connubio, usavano una metrica quantitativa, cioè i versi venivano recitati in base alla quantità delle sillabe, brevi, lunghe, ancipite, mentre l'italiano ha una metrica accentuativa, cioè si basa sugli accenti e si basa anche sulla lunghezza del verso. Ora, a mio parere si compone musica e si compone poesia quando si vivono delle emozioni. Ovviamente c'è anche la musica e la poesia d'occasione o su commissione, ma quando si hanno delle emozioni, si vivono delle emozioni, almeno è la mia opinione, si vivono delle emozioni, arriva, almeno a me arriva, l'impeto come una... Avete presente la diarrea? È quello. Ecco, per me la poesia è una forma di diarroica, una forma di diarroica. Cioè devo necessariamente sedermi e invece di produrre il PIL, il prodotto interno lordo, produco dei versi. Ora, sapete che stiamo vivendo un periodo di forti emozioni e qualche tempo fa, durante una delle mie sedute poetiche, ho prodotto 2 poesiole per Filippo. Una è una filastrocca in 8 ari, quindi molto rimata, ritmata, eccetera, e l'altra è in endecasillabi, che poi sono i 2 versi più diffusi per la poesia italiana. Andiamo alla filastrocca. Arriva Filippo. Sta arrivando Filippino, il più splendido bambino, col cavallo e con un ciuccio. Sta arrivando Filippuccio. Col cavallo lui ci corre, con il ciuccio ci discorre, perché è un ciuccio ed è paziente, è educato ed è sapiente. Avrà pure un orsacchiotto, birichino e tanto ghiotto, che si porta sempre dietro il lucertolino Pietro.

Radio Forte 100 Celle Avengers, di nuovo in diretta. Finalmente è passata quell'ora di divertimento che amo dire di solito. Madonna, oggi veramente sì. Ma perché è arrivata Gabby? Il tempo si è appesantito, scongelato. si è scongelato. A proposito di che gancio, che vuoi dire, secondo me manco ci stava pensando, invece sì, invece no, sì, invece certo, sì, perché certo. Il nostro sguardo ma certo si volge al passato, l'era al passato glaciale. congelato prima, molto prima. Ecco, siccome c'era un'inesattezza in questa battutaccia, Virginia non te l'ha fatto manco un cenno, una smorfia, no, vi dirò. mi stupisce questa cosa, perché la partenza di questo argomento di oggi è stata proprio sullo scongelamento dei dinosauri, cosa infattibile e inesatta, e quindi niente, è stata una discussione che l'avevo spiegato avanti. E tu non stavi attento. No, non l'ho spiegato a te, ne ho parlato, e quindi nel momento in cui ne ho parlato mi è venuta in mente questa puntata di questa rubrica di cui parleremo oggi. E infatti, ma parliamo come se nessuno conoscesse questa rubrica, prego. La rubrica è "Quando si svegliò il dinosauro era ancora lì", e parla appunto di paleontologia, nello specifico oggi dei nuovi sviluppi della paleontologia, che non è una scienza morta, è una scienza piena di vita. E oggi come ne il latino. Parleremo. Esatto, esattamente come il latino. Quindi se volete mando la sigla. Ma il latino non è una scienza. Prego, sigla. Sì, professor Grant, mia cara professoressa Sadler, benvenuti al Jurassic Park. Da dove te vengono? E basta! E basta, Virgil! Ma vedi, dannarte, naffa! Mi piace molto il ritmo che hanno le frasi che voi dite rivolte a me. Mi piace messo nella musica. Ma l'ho fatta io, quindi mi deve piacere per forza. Comunque, grazie. Bentrovati in questa roboante, oggi mi piace roboante. Bentrovati in questa roboante nuova puntata di "Quando si svegliò il dinosauro era ancora lì". Oggi parleremo appunto delle nuove scoperte, dei nuovi esperimenti che vengono fatti in base alla paleontologia e da paleontologi. Ho recentemente, come preannunciavo, avuto l'ennesima discussione sulla possibilità o meno di creare un Jurassic Park nella vita reale, e ho scandagliato di nuovo tutti i motivi per cui non si può fare. Uno su tutti: il DNA si degrada all'incirca in 6 milioni di anni, e tenendo conto che i dinosauri si sono estinti 66 milioni di anni fa, le possibilità di estrarlo da qualche parte o da qualche cosa sono sotto lo zero. E qui rispondo al discorso dello scongelamento. Non si possono avere possibilità sotto lo zero, però comunque. No, basta. No. Risata. Ah. Che ride. È tornata Gabri. Io non ho il comando dei pulsantini. No, è che Alexa, se si sente. L'umorismo di Francia, Alexa piace sempre. Vabbè, ma loro sono collegati da un. Hanno delle possibilità sopra lo zero, loro sì. Due. Sì. In compenso, quindi, non possiamo avere il nostro Jurassic Park con i dinosauri realmente esistiti, ma in compenso. Era il lontano 2012 ed un team di scienziati e ricercatori decise di ricreare le fattezze di un dinosauro non aviano, tutti estinti, a partire da un dinosauro aviano, ben presenti nella nostra quotidianità, come ben sapete. Aviano, quindi aviano con la V, no? Aviano, no. Aviano. Cioè, l'ariano, quelli che fanno la il pane. Aviana. La Saviana. Però i dinosauri biondi. Oh, mamma mia. Vabbè, comunque, ci siete. Ispirato questo team e guidato dagli studi di Jack Horner, paleontologo rinomato e forse il più conosciuto dopo Alberto Angela, chiaramente, in quanto consulente preposto alla parte scientifica di ogni film del Jurassic Universe, e vero John Hammond nella vita reale, cioè è in realtà oggi esattamente la persona che vuole i dinosauri nel, e fa di tutto per cercare di, per cercare di averli tra di noi in questa quotidianità dinosauri non aviani. E io se non specifico mi sento male. Jack Horner scrisse un suo famoso libro intitolato Come costruire un dinosauro, raccontando appunto degli esperimenti di cui vi narrerò a breve. In 46 comode uscite. In cioè, una si può sola fare a casa pure. A casa non lo so. Prima uscita 50 magari centesimi. Magari fra un po'. Oddio, se piano piano te lo costruisco. Ultima uscita 360.000 euro. Dente. C'è il DNA però. Con l'uscita 20. Non si può, quello non si compreso può. Compreso habitat naturale. Oh, mamma mia, magari. Allora, prima e unica in realtà domanda che vi farò: le differenze sostanziali tra un T-Rex dinosauro non aviano e un pollo dinosauro aviano, infatti, quali sono? Ditemene qualcuna a partire da Francesco, vai. La grandezza. Tra un dinosauro non aviano e un dinosauro aviano. Ho più paura del T-Rex che del pollo, forse. Le zampe posteriori, no. No, le zampe posteriori invece no, no. Gabri, quelle secondo anteriori. Te quelle anteriori, perfetto, perché nel dinosauro aviano sono ali. Piccole. Io quelle volevo dire, infatti. Lui sta guardando sul quaderno. L'hai suggerito, infatti. Ah, ok. Scusa, ho sbagliato. Posteriori e anteriori. Questa è una. Maestro, secondo lei una differenza tra un dinosauro non aviano e un dinosauro aviano? Uno ha la cresta, l'altro no? No. Betta. Uno vola, l'altro no. E a uno piace la birra, all'altro il vino. Allora, Aya, ho mangiato il microfono. Nel frattempo, le differenze sostanziali sono: le zampe anteriori di un dinosauro aviano che di un dinosauro non aviano, che in un dinosauro aviano sono ali, i denti che sono diventati becco, e la coda lunga che è diventata, io lo devo leggere perché me lo dimentico sempre, pigostilo, eccolo. E quindi la codina a timone degli uccelli. Pigostilo. Dico, pigostilo si chiama, sì. E infatti dopo vi spiegherò anche che cosa è bene il pigostilo. Comunque, servendosi delle proprie conoscenze sull'evoluzione, perché no, stanno facendo i discoli qua, sembrano noi con Francesco, me con Francesco. Comunque, servendosi delle proprie conoscenze sull'evoluzione, Jack Horner sfruttò il fatto di non dover cominciare da zero per sviluppare il proprio sogno. E non solo, sfruttò proprio il DNA stesso. Alcuni tratti del DNA, infatti, soprattutto in specie molto vicine tra loro, non spariscono, ma rimangono silenti ed inattivi. Negli embrioni, e quindi nelle uova, è assolutamente possibile vedere quei tratti che lentamente si modificano in base all'attivazione di altri geni, come quelli che permettono la recessione della coda. Infatti, in un embrione di un uovo, cioè in un uovo, quindi un embrione di uccello, di pollo, diciamo, inizia a sviluppare la coda, che poi recede e diventa pigostilo, perché si sono attivati i geni del pigostilo, sì, o si sono silenziati i geni della coda. Sai che sta cosa, mi sa che ce l'hanno pure gli uomini, l'avevo sentito. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Tutti quanti. Tutti gli uomini hanno il pigostilo. Ah, no, non è questo. No, però tecnicamente hanno la coda, nel senso l'ultima, sì, vertebra, sì, praticamente è una coda vestigiale che è rimasta. Ma infatti noi siamo vero, uomini non aviani. Questo è verissimo. No, è l'unico io non sottolineerei questa cosa, il aviano. Comunque, no, non a me piace faccio. Più il pigostilo. Pigostilo. Poi immagino sto T-Rex, porello, con sto braccetto corto. A proposito di pigostilo, infatti, nell'embrione di pollo la coda inizia proprio a svilupparsi, diventa pigostilo, e il pigostilo non è altro che quello che ci mangiamo noi, ovvero il boccone del prete. Ah. Il boccone del prete è pezzo di coda. È tutta una questione di accensione e spegnimento dei geni. E l'esempio che fa Horner stesso è quello che, punto primo, porterà avanti questa spiegazione. Punto secondo, mi ha salvato la rubrica perché non sapevo come metterci la musica in mezzo. E l'esempio che fa Horner, infatti, è quello di un brano registrato in multitraccia. Possiamo registrare decine di strumenti per comporre un dato brano, ma possiamo anche silenziare o selezionarne solo alcuni di questi strumenti. In questo caso, gli studi hanno reso possibile che un essere vivente sviluppasse un tratto ancestrale, e per mettere il tutto in pratica fu ingaggiato oddio, l'ho scritto malissimo. Hans Lerson, eccolo qua. Grande. È proprio lui. I cui esperimenti, per questioni etiche, rimangono e rimarranno sempre chiusi nel guscio di uova di pollo che non si schiuderanno mai. Quello che però è importante chiarire è che non avremmo mai la possibilità di ricreare una specie estinta, quanto di riproporre i tratti distintivi che la possano rendere riconoscibile, proprio come quando andiamo ad analizzare un brano per farne una cover. Per quanto perfetta, quella cover non sarà mai l'originale e sappiamo subito che non sarà mai l'originale. E quindi, dopo aver fatto questo, perché io parlo di scienza, dopo aver fatto questo discorso altamente scientifico, manderei un brano dei Mr. Bungle, che è Egg. Egg. Posso fare una domanda? Ma quante ne vuoi? No, una sola. Quaderno. Oddio, no, si è fomentata. Cala. No, io stilo. Mi chiedevo se chi, diciamo, anela a ricreare, diciamo, codesta specie e la vuole originale, quindi... poi gli prende male se... Cioè, poi cosa ne vorrebbe fare? Cioè, nel senso, immagina che poi questi si mettano dalla sua parte e diventino... A parte il parco divertimenti, che è un'idea ormai inflazionata, abbiamo capito che poi potrebbe finire male. Ma cioè, allora, pensano tutti di farsi il proprio Dino nel domestico, nel giardino, o è una cosa... Cioè, no? Risponderò in vari punti. Il primo è che non sarebbe molto divertente avere un parco di dinosauri con dinosauri molto piccoli. Perché le uova sono quelle, gli animali sono quelli. Già che ne fai uno, mi sembra che già c'hai problemi col posto auto, eccetera. Cioè, nel senso... Non sarebbero grandi. Li vogliono fare medi. Sarebbero sempre piccoli, dentro le uova devono stare, capito? Al massimo lo puoi fare a grandezza struzzo, perché è l'uovo più grande che noi abbiamo. Se no sai quanto ti costa dei croccantini. O comunque embrioni, dobbiamo riattivare quella cosa lì. Secondo poi, ovviamente è per questioni di studio, ci possiamo fare la stessa identica domanda su un sacco di cose che vengono fatte solo per piacere di farle o per cercare di capire... No, per me mi sono fermata. Quando mi hai detto che non sono grossi come... Ah, non te frega più niente. No, cioè, sono... come e infatti... non sono più spaventato, ecco. Possono infatti... provare a fare quello che vogliono, mi sento capitalismo, ecco. Insomma, consumismo. Ma la questione etica è esattamente quella. Non dovremmo ricrearli, proprio perché, come veniva detto in Jurassic Park, e soprattutto come veniva detto grazie a James Horner, life finds a way. Cioè, nel momento in cui tu ricrei una nuova specie, quella specie che sarebbe nuova, e la metti in un contesto che non è il suo, quella specie si espanderà, andrà a cercarsi la propria nicchia. E se tu vai a ricrearti il tuo magari enorme dinosauro o anche piccolo dinosauro, quel piccolo dinosauro si andrà a cibare di cose che non sono il suo cibo. Come i gremlins. E di animali che non hanno che non sono stati tipo le persone, prede principalmente. Come i pappagallini verdi a Roma. Come i pappagallini verdi a Roma. Sarebbero specie alloctone, specie aliene. Come le rane in Australia. Come i rospi in Australia. No, io intendo che se mangiano proprio le persone, cioè i dinosauri. Vabbè, io sto sempre immaginando a quello sto sempre immaginando quello piccolo, ma soprattutto è tascabile. È a grandezza pollo, ma infatti ve l'avevo detta sta cosa. Cioè, ve l'avevo detto che si chiama pollosauro nella scienza, vero? No, non l'avevo detto. Non avevamo seguito bene, forse. Mi sa che me l'ero perso nella lettura del mio stralcio qui. E si chiamano pollosauro, è un pollosauro, non sarebbe un dinosauro come ce lo immaginiamo, non è nemmeno un uccello come ce lo immaginiamo, è un pollosauro, cioè quello che... Tu sei partita già che gli aviani, noi dobbiamo sapere che erano. Ma ve l'ho detto tante volte. Figurate poi il pollosauro. Comunque, ma veramente aguzzini invece di denti. Comunque, noi incameriamo dei saperi dalla matematica al dinosaurismo, paleontologia. Guarda, che va rancore anche da qua, No, io certe cose me le devo semplicemente riascoltare come lezioni di quelle difficili. Ma eravamo a. Al pezzo. Eravamo a mandare il brano. Il brano è il brano Egg dei Mr. Bungle. E ci serve soprattutto per chiarirmi le idee, perché i Mr. Bungle saranno a Milano a giugno. Io non so se ci posso andare o meno. E quindi intanto. Dai, Virgi, andiamo. Pensiamoci. Hey. looking at you if you weren't looking at me. Yo! Radio Forte 100 Celle Avengers, è giunto il momento in cui chi sta dietro al mixer trova il suo sfogo in una piccola radio di provincia. Ti butti sempre giù. E in qualche maniera, non lo so, esorcizza quelli che possiamo definire effettivamente dei traumi. E non a caso la rubrica di cui vado a parlare si chiama Traumi Fonici e ha una sigla. Sei fregato. Oh, che cazzo state dicendo? Andiamo! Sono il vostro fonico! Siamo nella valle, bello. Ci sono un sacco di fonici qua. E quest'oggi a Traumi Fonici. Fade in. Il biascico che mi contraddistingue fa capire la difficoltà quest'oggi nell'esternare. Vabbè, calcolate che sono andato a prendere il lavoro meno puzzolente della mia, diciamo, recente carriera, sempre nel campo della fonia e dei service, soprattutto i service che ti mandano qua, ti mandano là. E questa volta si trattava di una manifestazione svoltasi a Piazza del Pueblo. È la meno questa. Questa è la meno. Okay. Se comunque questa è la meno, molto conosciuta. Il Pueblo Unido. Fatevi capaci. Si nasce incendiari e poi si finisce pompieri. Infatti era proprio la festa dei pompieri di Stato. Mamma. C'è un operatore che canta. Mamma mia. Ma chi sarà? È Biascicone. Evviva la banda dei pompieri! Grisù. E questa è l'operazione simpatia del corpo dei pompieri di Stato che festeggiavano il loro 172esimo anniversario. E noi, ahimè, per le vicissitudini che la vita porta, eravamo lì e pensavamo a voi altri, come a quella realtà che a un certo punto doveva arrivare, come un po' come Un po' come Luke Skywalker, quando a un certo punto infila la propria navicella nel cunicolo del condotto, del coso, del termosifone, della morte nera, gli spara un missilone e fa esplodere la morte nera. Ma avreste colpito un vostro comunque che è la navicella nemica. Quindi fondamentalmente sì. No, è inutile che io stia a elencare le cose per cui questo lavoro è stato un trauma, perché comunque voi potreste immaginare che sia un lavoro come gli altri e che loro non ti trattino come se tu fossi un pompiere, diciamo. ma lo fanno, e quindi diciamo è un surplus di piacevolezza essere trattati, diciamo, in maniera marziale dai pompieri. Dall'alto di in stato. Basso, diciamo così, possiamo Oddio. Dire così. Sì, no, come diciamo, l'ultima delle merde, come... sì, vabbè, no. Diciamo che se chi già mai il detto, cliente normalmente vuole una cosa fatta subito, loro proprio non. Ma soprattutto è sul no come risposta, come bambini piccoli, che il vero poliziotto, diciamo, la festa delle guardie, si fa valere. Perché un no come risposta dato a una guardia con tutta l'argomentazione tecnica non vale. Vabbè, si può dire però che i pompieri sono dai il corpo più simpatico. I pompieri. Ma stiamo, però... diciamo che stiamo utilizzando la parola pompieri come prima euterpe, bravissima, come euterpe. È talmente Gattini, difficile definire pompieri. Questa cosa, comunque abbiamo dovuto seguire la banda dei pompieri, appunto con dei boom che sono quelle aste microfoniche, quelle lunghe che si usano nel cinema e quant'altro, ma non è questo. Io riesco a spiegarvelo soltanto accollandovi 3 minuti di parlato non mio, che vi fa capire il mio stato d'animo e perché vi parlavo a voi come se foste quelli che a un certo punto dovevano arrivare a far esplodere tutto. E voi la manovalanza. Lo Jedi o l'impero colpisce ancora? L'impero bestemmia. L'impero ha un finale migliore, intendo, a Luke viene amputata la mano, lui scopre che Lord Fenner è suo padre, Yann viene ibernato e portato via da Boba Fett, un finale che t'ammazza. Insomma, questo è la vita, una serie di finali duri uno appresso all'altro. Invece lo Jedi è solo una massa di pupazzi. No, lo Jedi c'è in ballo qualcos'altro, non me ne ero mai accorto prima d'oggi. Loro costruiscono una nuova morte nera. Giusto. Ora l'altra era pronta e del tutto funzionante prima che i ribelli la distruggessero. Luke l'aveva fatta saltare, tutto merito suo. E la seconda, quando è stata fatta esplodere, era in costruzione. Già, e a farlo è stato Lando Calrissian. C'è sempre stato qualcosa che non mi tornava nella seconda esplosione, qualcosa che non riuscivo a mettere a fuoco e che proprio non mi andava giù. E ora ci sei riuscita? La prima era presidiata dalle armate imperiali. Le sole persone a bordo erano le truppe d'assalto e in più, diciamo, i vari dignitari. Sostanzialmente. Ragion per cui quando salta i conti tornano, il male è punito. Mentre la seconda volta? La seconda invece non avevano ancora finito di lavorare, era ancora in fase di costruzione. Allora? Allora, un'impresa di quella portata richiede un sacco di manodopera in più rispetto al semplice esercito imperiale. Scommetto che c'erano di mezzo un mucchio di appaltatori esterni. Idraulici, metalmeccanici, muratori... Cioè non sono imperiali, fonici. Questo vuoi dire? Esattamente, specialisti di ogni tipo per finirla alla svelta e di nascosto. Figurati se le truppe d'assalto saprebbero installare un gabinetto. Loro tutto quello che sanno si limita alle armi e alle divise. D'accordo, coinvolgono degli appaltatori esterni, ma che cos'è che ti disturba tanto quando viene distrutta? Che saltano per aria quei poveri lavoratori improprio che erano lì per costruire, vittime di una guerra che non li riguardava affatto. Allora senti, tu hai un'impresa. Lo Stato ti offre un bel appalto su un piatto d'argento. Hai moglie e figli a carico, un villino di 2 piani in periferia. Si tratta di un appalto governativo e quindi ci sono un fottio di vantaggi. Poi arrivano i militanti di sinistra e distruggono tutto quello che c'è nel raggio di 6 chilometri con i laser. Tu non c'entri niente, non hai una posizione politica. Tu cerchi solo di far quadrare i conti. Scusate, non volevo interrompere, ma di che cosa state parlando? Del finale del ritorno dello Jedi. Il mio amico qui vorrebbe convincermi che gli appaltatori esterni che lavoravano alla costruzione della Stella Nera distrutta dai ribelli sarebbero tipo vittime innocenti. Beh, io lavoro in proprio, ho una mia ditta. Ristrutturazione chiavi in mano. Quindi vi parlo da libero professionista e vi assicuro che la propria posizione politica c'entra e come quando si accetta un incarico. Cioè tipo? 3 settimane fa mi è stato offerto un lavoro in collina. Bellissima casa, una proprietà enorme. C'era solo da dare una piccola risistemata al tetto. Mi dicono se ce la faccio in un giorno. Al che gli chiedo il doppio. Se non che poi realizzo di chi è la casa. Vale a dire? Di Dominique Bambino. Babyface Bambino, il gangster. Già, quello. Per i soldi niente da dire, ma il rischio era troppo. Sapevo chi era, ragion per cui io ho passato la mano a un amico, ovviamente. Insomma, una scelta politica. L'hai detto, la settimana appresso il clan dei Foresci mandò un suo scagnozzo a casa di Babyface. Chi ha fatto secco? Il mio amico. Neanche aveva messo piede sul tetto. Ma pensate... Insomma, l'ho scampata perché sapevo con chi avevo a che fare. Quel poveraccio la pensava diversamente. Ognuno di quegli operai a bordo della Stella era al corrente del rischio che correva. Se ci ha rimesso la pelle, la colpa è solo sua. Regola 1. Pensare prima a sé e poi al portafoglio. E quindi con questa morale dubbia, tripla, che ha fatto trasalire la giornalista Gabri Grubi, noi ci lasciamo con un altro repertorio del 100 celle Amarcord, Blister in the Sun, cantata da Manu. Woo! Woo! Let me go on, like a blister in the sun. Let me go on, begin to know you're the one. Quattro ragazzi su radio forte e queste 100 celle aperte. Il mio pinguino di ceramica nello studio guarda sempre verso. Il mio pinguino di ceramica nello studio guarda sempre verso. Su radio forte 100 celle aperte. C'è una rubrica sotto che si chiama Nord del Nord. Come l'ha chiamato? Nord del Nord. Grazie da su 100 celle aperte. Buonasera piccoli nerd, scusate la bagarre ma stavolta sto nella postazione del potere, mi sono spostata al posto del nostro maestro perché questa volta ho tipo 860.000 contributi e quindi la gestisco io la puntata e sto facendo un casino incredibile al computer. No, infatti volevo entrare in voce io per dire cosa sta succedendo. Ma in realtà volevo entrare in voce io per dire questa cosa, però poi mi è partita la sigla, non lo so cosa è successo. Sì, ho visto, vabbè, non ma quando vi scambiate è tutto, cioè inizio a fare le cose che farebbe lui e viceversa. Oh, santa pace. Va bene. Vabbè, che stiamo a di quindi? Prego. Oggi vi beccate il sottofondo di Fallout perché è appena uscita la serie, è bellissima, andate a guardarla subito. Ah no, aspettate un attimo, dopo la puntata, Allora, stiamo di in radio, di cosa è più facile parlare se non di voci? Quest'oggi volevo stupire anche voi con un po' di cose che ho scoperto ultimamente. Non sarò tanto io a parlare quanto un sacco di altra bella gente. Su, prendete carta e penna perché giochiamo a indovina il doppiatore e alla fine voglio il conto di quante ne avete indovinate. Sì! La prima curiosità, ecco, madonna, l'ho rifatto. Come si sto? Betta, quando Betta, fa per favore, Betta. Questo lenzuolo ha uno strano odore, sai? Per forza, è quello che uso quando mi faccio i rasponi. Questo lo riconosco. Aiuto, non ho la stessa. È come quando cambi macchina, no? Che non riesci a prendere la marcia con la macchina nuova. E intanto si è anche stoppato il sottofondo. Io voglio morire. Si è rotto tutto. Ecco. Ah. Io allora maestro cosa. Vuoi farlo tu il nord del nerd oggi? Sì. Veramente. Allora stavo a dire la prima curiosità riguarda un cartone che forse solo quelli della mia età ricordano, Beavis and Butthead. classe 1993. Beavis and Butthead parla di due ragazzi scansafatiche e apatici, per lo più sboccati e fancazzisti, che fanno continui commenti satirici e feroci sulla società. In Italia venne trasmesso su MTV nel 98, ve li ricordate? Così sembra, certo. Così sembra un cartone impegnato invece. Sì, è vero, invece era una cosa triviale, freschissima. Ma ho detto fancazzisti. È vero, l'ha detto, l'ha detto. Quello che forse non sapete è di chi siano le voci dei due, ma ascoltiamole. Questo lenzuolo ha uno strano odore, sai? Per forza, è quello che uso quando mi faccio i rasponi. Dicevano solo queste cose, infatti. Molto impegnato. Sembra Paolo Rossi. No. Ma Virgil lo sa. Vai verso Manu. Ai, si parla di Elio e Faso. Ma dai. Sì, in questo caso non sono Elio e Faso, ma Elio e Rocco Danica. Ma vabbè, avete capito il concetto. Anche oggi la quota bassisti è stata Io l'ho scoperto quotata solo qualche giorno fa e mi ha stupito tantissimo, perché non me lo sarei proprio mai immaginato. Anche io. Un'altra sorpresa sta nello spin-off di questa serie, cioè Daria, cartone sempre di quegli anni, che dipingeva un'adolescente scazzata e molto intelligente, dedita allo humor nero e a compatire la sua sorella bionda e stupida come un comodino. Bellissima. Bella Daria. Mi piace più di Beavis and Butthead. In questo caso, altra sorpresa, ascoltiamo Daria per riconoscerne la voce. Eccola qua. Io e papà ti abbiamo detto e ripetuto mille volte che sei una ragazza magnifica. Perché non vuoi capirlo? Si può sapere cosa c'è che non va? Non è che fra un po' le viene le domine con nervoso, vero? Non è che mi metterà in pessima luce con i miei amici? Non preoccupatevi, vi assicuro che non ho poca stima di me. Deve esserci un errore. Lo dicevo io. Ho poca stima per tutto il resto del mondo. Non mi ricorda niente, Dio, chi è? Sì. Vabbè, io lo so. Aspetta, era Massironi. No. Sì. No. Marina Massironi. Marina Massironi, famosa per le collaborazioni con Aldo Giovanni e Giacomo. Bel figotto pacciarotto, Ma sentiamola, così vedete che è proprio lei. Ma lei chi è? No, non me lo dica, vi lascio indovinare. Lei è Zorro! È proprio lei. Non pure questa, ci sono rimasta malissimo. Massironi che ha doppiato un'altra cosa bellissima, che è rimasta nel cuore di noi maschietti, che era l'infermiera Tatase nella Clinica dell'Amore, che era una cosa che non conosce nessuno, ragazzi. Wow, però no, questa era cosa lei, ragazzi. Per voi maschietti. Era lei. Adoro. Continuando con i doppiatori che non ti aspettavi, eccone altri due che non avreste mai riconosciuti. Ve lo ricordate Il Re Leone, il film della Disney? No. Sentiamo un po' loro. Niente. Ma guarda, è proprio il mio fratellone disceso dall'Olimpo per mescolarsi coi comuni mortali. Sarabi e io non ti abbiamo visto alla presentazione di Simba. La cerimonia era oggi. Oh, quanto sono mortificato. Mi deve essere sfuggito di mente. Deve essermi sfuggito di mente. Dai, chi sono? Allora, uno è Gigi. Esatto. Uno è Scar. Uno è Scar. Uno è Vittorio Gassman. E infatti, guarda, aspetta, è proprio il mio fratello. Ho sbagliato. Voi sapete chi io sia? Noni. Avrete sentito, suppongo, lo nome di Groppone da Figulle. Mai coperto. Groppone da Figulle fu lo più grande capitano di Tuscia. E io son colui che con un sol colpo d'ascia lo tagliò in due. Lo mio nome, stare attenti, lo mio nome è Brancaleone da Norcia. Era proprio lui, Brancaleone da Norcia. Vittorio Gassman. E l'altro? Lucia, oh mio Dio, vorrei chiedervi. Era lui. Tullio Solenghi. No, ma io pensavo che in mezzo ci stava Gigi Proietti, invece no. Gigi Proietti è il genio, sicuramente. Sotto. No. Top. E tra l'altro il trio ci dà anche altre sorprese e non finisce di partecipare qui al nostro gioco. Spoiler. Perché? Spoiler? No, che ne so, c'è dato un indizio. Sì, un pochino sì. Sì, no. Te preoccupa. Ma sentiamo un pezzettino da Le Follie dell'Imperatore. Ah, lo sapevo. Mi dispiace ricordarmi che tipo di parentela ha con Pace. Oh, sono la bisprozia della nipote della moglie del fratello del cugino acquisito. Lo abbiamo scoperto di recente. Sì. Da parte di mamma. Anna Marchesini. Esatto, cioè Bella Figueira. Oh, ciao, sono Bella Figueira. Don Rodrigo, hai visto chi c'è? C'è Bella Figueira. Ciao, sono Bella Figueira. Fantastico. Per continuare sulla scia Disney, intanto mi se n'è andato il sottofondo. Ma tanto l'imperatore credo. Era tipo Luca. Ma veramente? O Luca o Paolo? Sì, sì, l'imperatore è, è Luca. Luca di Luca e Paolo. Ma dai. Luca che si copre. Sì. No, allora Paolo. Ah, Paolo credo. No, no, è Luca, è Luca. Ma insomma, me li state facendo scoprire. Il lama, il lama, il protagonista delle Foglie dell'Imperatore, cioè l'imperatore è Luca. Luca Bizzarri. Luca Bizzarri, bravo, esatto. Però mi sa che Paolo doppia forse bravo, mi sa che fa Kronk. Che comunque è il, sì, più è il personaggio più bello delle Foglie dell'Imperatore. Paolo Bitta. Grande. Paolo Bitta. Dai, ve ne do un altro. Grazie, sempre Disney. Sto continuando a prendere a capocciate il microfono, scusatemi. Poverino. Prego. Ve ne do un altro che è facile facile. Padrone, secondo me non hai ancora realizzato che si tratta. Perché non provi un po' a concentrarti mentre io passo ad illustrarti le mie possibilità? Questo ha detto Virgi prima. Dai, questo manco voglio dire. Ma sì, si sa, si sa. Ha detto Virgi prima. Sì, e lui è il Gigi nazionale. È il... Oddio, mi saluto tutto. Mi saluto tutto. È Carcagliere Nero lui, è carica carcazza! Esattamente lui. Che in originale era? Che in originale? Il Cavaliere Nero? No. No, bravo, è famoso anche la voce in originale. Robin Williams. Ah, già vero. Che ha improvvisato tutta la parte di... Infatti quella cosa mi piace tantissimo. Ha improvvisato tutta la parte dove raccontava che cosa poteva diventare il genio nella canzone. Bellissimo. Genio proprio, veramente. Beh, sì, da Robin Williams, insomma... Però anche la parte nostrana ce la siamo cavata bene. Gigi D'Alessio. Aiuto ragazzi. Questa puntata sta prendendo una brutta piega. Quanta neve che farà. Beh, ma in realtà il doppiaggio italiano è rinomatissimo nel mondo. Ma loro non erano doppiatori, però loro erano attori famosi presi. Infatti la rivolta dei doppiatori iniziò da queste cose qua. Perché gli attori venivano messi perché famosi. Poi vabbè, c'erano Gasman e Proietti, per fortuna. Beh, però che ci stanno. Ultimo di casa Disney, sentiamo un altro contributo, se riesco a farlo partire. Vediamo se indovinate chi è. Per te chi ha insegnato a Giasone come si naviga? Cleopatra. Ma tutti a Gabri gli mandi. No, beh, ma questi sono Odissea. Sì. Ma sai? È sempre famoso. E lui è... Un sacco di sé. Non tiene il nome, ma è famoso. Ma... Si somiglia pure. Ma non tiene il nome. Magalli. Magalli. Esatto. Magalli. Ma Magalli. Si somigliano anche. Nel senso alle fattezze, del satiro, sì. Se non che in lingua originale lui è Danny DeVito, che si somiglia, anche a lui, con Magalli. Che si somiglia con Magalli, infatti. No, questa cosa non l'avrei mai detta. E per chiudere, ci diamo anche uno dei doppiatori più fecondi della storia del doppiaggio italiano, che è esattamente lui. Occhi del cuore 3. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo! Dai! Yeah. Pannofino ha doppiato la qualunque. E tra le tante, lui era anche... Bah, non ti vedo da quando eri un affarino, Harry, ma... Sei un po' più abbondante di quanto mi aspettavo, soprattutto Hagrid. Sulla pancia. Hagrid, di Harry Potter. Sì, ha doppiato una marea di attori famosi. Un applauso a Pannofino, che è sempre bravo. Vabbè, lui è proprio il vero doppiatore tra tutta questa... però poi è diventato un grande attore. Esatto. Nel nostro cuore, negli occhi del nostro cuore. Con Boris. Vabbè, volevo chiedervi quante ne avete indovinate, ma in realtà me ne avete insegnate alcune voi a me, e quindi è andata così. Un bel giochino. Il grande purtroppo è che non ho preso i punti, anche se stavo lì. Per quello che dicevo, mi hai fatto spoiler, ste cose, volevo che fosse una cosa, capito, da segnare. Te l'ho detto, prendi carta e penna. Sempre perché non è competitiva, Virginia. Io no. No, per niente. Competizione violenta. E adesso un'altra partita. Ricominciamo. Facciamone un'altra. Vabbè, piccoli nerd, spero di avervi fatto scoprire comunque un po' di curiosità divertenti da tirare fuori nelle feste con gli amici. Il nostro momento finisce qui e vi lascio con un pezzo che, dai, manco ve lo dico, tanto lo conoscete tutti a memoria, un pezzetto l'avete anche già ascoltato. Dalla colonna sonora del film Aladdin canta Proietti, un amico in me. Wow. Sempre se riesco a farlo partire. Secondo me non hai ancora realizzato che si tratta. Perché non provi un po' a concentrarti mentre io passo ad illustrarti le mie possibilità? Nemmeno coi 40 suoi ladroni, Alibaba è ricco quanto te. Il cielo ti aiuta, tu sai perché. La mia magia è un certo non so che. Adesso la tua forza è mitica, e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai stregare. E dirò, bonjour monsieur, che cases scrive sul carnet. Chiedi pure tutto ciò che vuoi a un amico amico come me. La vita è un ristorante, è come un grande buffet, perché tutto ciò che chiedi avrai grazie a un amico come me. Oh, son felice di servirti, sei il boss, il re lo sa, e dolci d'ogni tipo assaggerai, gradisci ancora un po' di baklava. Si vive in serie, dimentica la B, comanderai la servitù per dormire fino a mezzodì. Roma! No, no! Na, na, na, un amico come me. La mia leggiadria è la fantasia, è stregoneria, questa è magia. Stai a guardare! Son qui per te. Ma se dico abracadabra, via di qua, or spariranno tutte e tre. Adetta gli occhi che ti schizzano via per le sorprese che io ti farò. Sono una paurizza di garanzia e i problemi tuoi mi accollerò. Non vedo l'ora d'aiutarti, sai, tu chiedi tutto quello che si può. La lista lunga quanto la vorrai, i desideri poi esaurirò. Oh, Mister Aladdin, questo mondo è qui per te. Capirai che solo io sono un grande amico tuo, sono il vero amico tuo, non c'è altro amico come me. Un amico grande come me. Stai ascoltando Radio Forte e questo a Centocelle Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte. Dalla scuola di musica performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta mai. Centocelle Avengers, la musica si difende. E a un quarto d'ora dalla fine, sempre in diretta su Radio Forte, Centocelle Avengers. Ma che abbiamo succede? Quest'oggi? Allora, facciamo che io la presento e tu la conduci, va bene? Te lo volevo dire prima dietro le quinte, ma non c'è stato. Tipo Daria Bignardi e Liorni nel primo Grande Fratello. Tu non eri neanche nata. No, vai. Facciamo come Mara Venier al solito Domenicaino. Ma sì, Corrado, non ci piace. Non fare ci piace tutto a vista. Tutto a vista. Bene, dopo quindi queste citazioni alte, e stiamo per lanciare una nuova, nuovissima puntata di Cigni di Balacà, ascoltatori e ascoltatrici, ma questa volta arricchita da un mashupone con Aspettando Mogol, ecco, non mi veniva il nome. Grazie. Dell'altro. Quell'altro, dai. La bocca di tutti. Non so come faremo con le sigle, questa pure te la vedi tu, prego maestro. Intanto una la mandiamo. Sì, sigla. Ma non lo senti che è uguale ai cigni dei Balacà? E quindi che succede? Che Cigni di Balacà è una sottoredazione comunque di professionisti che è un po' come i telegiornali hanno pronti i coccodrilli, noi abbiamo pronti i cigni, li teniamo lì in frigo. Coccodrillo, per chi non ricordasse, è il servizio pre-morte fatto su tutti quelli un po' verso una certa età, cominciano a fare il servizio di quando, per avercelo prima di tutti. Ma non invece... si ricorda perché si chiama coccodrillo? Mo che me... Perché coccodrillo c'è questa cosa che magna, piagne dopo, cioè c'è questa cosa, questa, pianto dopo, piagne prima, piagne, cioè c'è questo fatto qui. Ma come siete che colti? L'ho spiegato benissimo come scienza brutta, però è vero, questa cosa si chiamano coccodrilli. Noi invece abbiamo i cigni, che in realtà rimangono lì a muffi. Cioè, ne parlo quando ormai tutti sanno sta cosa e non frega più a nessuno. È un po' il contrario del coccodrillo. Ma di plagi non si smette ti mai di parlare. Sempre giù. Esatto. Nel siamo senso, sempre pronti a sgamare nuovi plagi. Nel lontano 85 avevamo messo da parte questo servizio su il grandissimo Ed Sheeran. Mila Ed Sheeran, famoso per la canzone Mila Ed Sheeran. Che ridere. Bellissimo. lo quale è stato chiamato in tribunale per un caso di plagio, è stato accusato dai parenti di Marvin Gaye. Ora io spenderei un attimo di attenzione sul fatto di quanto rompono più il cazzo i parenti degli artisti veri, cioè questo forse è una cosa scontata, ma perché sono proprio quelli che capitalizzano, mentre ma magari l'artista vero i soldi veri non era riuscito ancora a farli, ma i parenti lo sanno tutti, e quindi appena sanno i parenti di Marvin Gaye che mo chiamo mio padre e mio fratello che so peggio, capito? Cioè comunque stanno lì avvelenati, perché non è la prima causa che sento mossa da parenti di Marvin Gaye. E anche, cioè, nel senso che ce n'è proprio un altro su Marvin Gaye, ma anche in generale parenti di Robin Thicke, brava, vedi, mamma mia, sul pezzissimo Virginia. Invece questa qui se la va a prendere con il vecchio Mila e Sheeran, che insomma io vado a proporre un attimo l'audio in questione. Il lavoro sporco l'ha già fatto qualcun altro, perché questa è una cosa talmente nota, fritta e rifitta, che già qua sono mesciappate. Però potete già cogliere come si parli di un giro armonico piuttosto qualsiasi, ecco. Ah, pure qui c'è sta sexual healing. Pure quell'altra era sexual healing di Tick, mi pare. No, mi stai trollando la rubrica. Attenzione che già sono confuso. Così perdo anche, perché io già faccio fatica a dire che Thinking Out Loud è quella di Ed Sheeran e Let's Get It On è quella di Marvin Gaye. Marvin Gaye, le quali al di là della modulazione portano avanti lo stesso giro, che è talmente banale che il vecchio Ed si è presentato in tribunale da coatto, questo è il motivo per cui ne parliamo, perché fa un po' così, ha fatto un po' si è presentato con la chitarra per autodifendersi e fargli sentire quanti pezzi riusciva a fare con questi quattro giri. Accordi, proprio quattro, che state sentendo, e che quindi insomma la causa era abbastanza, infatti. Secondo voi, dopo tutto questo che si è presentato, chi ha vinto? Marvin Gaye o... Ha vinto il grandissimo Ed. Alla fine la causa è andata a finire in suo favore e i parenti continuano a mangiarsi i soldi di Marvin per quello che comunque aveva fatto. C'è sta sempre what's going on. E quindi fammi i soldi. Sono su comunque quello. Contenti. Ma adesso vogliamo sentire Sheeran che fa 10.000 canzoni con gli stessi accordi. Ma infatti io lo vorrei in radio a fare sta roba. No, io ho cercato ovviamente. Guarda, il documento audio, ma ovviamente nei tribunali non si può audio registrare così e mettere su YouTube. E quindi non abbiamo il contributo di Ed Sheeran che in tribunale gli fa sentire. Però questo pare che sia successo. E, chiuso questo caso, che è semplicemente di plagio, così, di questi un po' dozzinali che capitano. C'è il mashup di cui parlava la nostra giornalista faziosa Gabri Grubi, che avviene tra la rubrica Cini di Balacà e la rubrica Aspettando Mogol, della quale adesso palesiamo la sigla, è comunque la rubrica che si occupa di testi di canzone. E una parola ancora la spendiamo appunto per tornare sul luogo del delitto dopo tanto tempo, perché andiamo in onda sempre rarefatti, ma comunque una questione che Aspettando Mogol aveva già trattato, e cioè il riempitivo. Quella volta lo chiamammo così, riempitivo da testo di canzone. Abbiamo fatto una classifica di tutti, diciamo, i brani, soprattutto di musica italiana, anzi no, solo di musica italiana, che a un certo punto presentavano un qualche, diciamo, riempitivo di testo che non era di senso compiuto, ma era un du-du-du, da-da-da, di cui appunto il primo in classifica fu Mietta e Aldo Baldi con Tortolino Amoroso. Ma in classifica, bello alto, c'era anche lui, c'era anche Tizianone Ferro, il quale avevamo... affrontato per tutta la sua poesia, la poetica di Tiziano Ferro, poetica profonda, che poi na na na na na na na. E lì l'avevamo perdonata. Il problema nasce quando tu dici l'ha fatto perché comunque il testo era finito, aveva scritto delle cose, lì non gli c'entrava altro, ma non c'era un dubbio altro. Ho sbagliato. Era questo. Scusate, era questo. Un po' di anni prima, a Sanremo, quindi manca di al Festival della Salsiccia, della Salsiccia, Cristiano De André andava con questo pezzo che, al di là del testo che sentite, sotto presenta gli esatti, manco una virgola cambiata, accordi di... Non me lo so spiegare, infatti qua parte: solo che pensavo quanto è inutile farneticare, credere di stare bene quando inverno è te, eccetera eccetera. Quindi che significa? Che non era una questione, cioè che proprio, cioè se te la sei copiata e quindi è quella, hanno detto vabbè qua che famo, mettiamoci na na na na na, e poi dopo c'è sta pure, cioè lo dice varie volte, cioè voglio, no no no no no, serviva proprio quella, cioè, quel brano, se la siamo rubata, se la siamo rubata così, cioè quindi niente, questo è, mentre prima gli perdonavamo non avere, diciamo, quell'ispirazione così, ma se te sei copiato pure il pezzo, dovevi andargli appresso per forza. Quindi chi nasce prima, l'uovo o la gallina, il testo o la musica? Ma riprendo musica? La rubrica. No, perché questo è un tema vero, è un tema che si dibatte spesso, perché spesso c'è il musicista che ha scritto solo la cosa, la musica, e la propone a qualcuno, ma la maggior parte delle volte si dice che appunto sia il testo, l'urgenza del testo, e quindi poi il cantante con un minimo di no, che sono almeno uno strumento in croce, che già gli dà una metrica, quella cosa che poi crea la cosa di interesse figo, per cui poi i musicisti ci creano il resto intorno, non il contrario. Invece qua è il contrario, e quindi è andata così, è andata così. E io quindi vi lascio con questo Mogol che aspetta Balacà, che aspetta i cigni ammuffiti nello stanzino, con un pezzo che forse può rispondere, diciamo, al momento. Gli Tiziano Ferro e Suonate Forte, 100 Celle Avengers. Cioè, comunque riflettete mentre lo ascoltate. Sono pochi chilometri da qui. Io che ho passato tanto, tanto, tanto, tanto, tanto tempo, sigo sintiendo tanto, tanto, tanto, tanto miedo. Perché la verdad que ya no sé. Pero es que yo siento tanto, tanto, tanto, tanto, tanto peso. Peso que fijo, ya no resisto. Peso que cargo, que ya no existo. Peso que miente en un abismo. Peso que anulo, yo ya no insisto. No, no, no, amor, ya no. Y es que me duele tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Decir que tú crees que lo mío es un capricho cuando yo cojo y te pido que me muestres lo que sientas, que me digas que me quieres sin que yo sepa que mientes. Pero tú te das la vuelta cada vez que algo me cuesta, porque tú crees que sí, que no, quién soy. Creí que entendía, no sé por qué me ahogué en una agonía, ya ves. Tal vez soñé que tú cambiaría, pero no ves que yo ya no puedo entender. Tú crees que lo mío es un capricho cuando yo cojo y te pido que me muestres lo que sientas, que me digas que me quieres sin que yo sepa que mientes. Pero tú te das la vuelta cada vez que algo me cuesta, porque tú crees. Todas las veces que te has marchado, todos los besos que no me has dado, todas las farsas que me has contado, todas las noches que me has dejado, todas las veces que me he callado, todas las cosas que yo te he dado, toda la fuerza que yo he gastado, todos los días que te he llorado. Tú crees que lo mío es un capricho cuando yo cojo y te pido que me muestres lo que sientas, que me digas que me quieres sin que yo sepa que mientes. Pero tú te das la vuelta cada vez que algo me cuesta, porque tú crees. Y es que tú crees que lo mío es un capricho cuando yo cojo y te pido que me muestres lo que sientas, que me digas que me quieres sin que yo sepa que mientes. Pero tú te das la vuelta cada vez que algo me cuesta, porque tú crees. Thank you. Radio Forte, 100 Celle Avengers, ed era Duna Sanchez, perché è importante comunque dare nome e cognome degli autori, soprattutto quando il pezzo è loro. E Madame Sanchez. Capriccio, Capriccio il pezzo. Il pezzo si chiama Patricio, Patricio, no, Capriccio, Capriccio, Patricio, scusa. Patricio, Patricio. E niente, salutiamo Duna Sanchez che ci segue sempre. Siamo addirittura ad arrivo in anticipo. Ma non lo vuoi dire come è finita la storia tra Madame e Duna Sanchez? Come si chiama? Duna. Così Citroen. Diciamo, apparentemente il pezzo è ancora, diciamo, online. Quindi, se non altro, c'è un accordo per cui, secondo me, si è fatta pubblicità. Comunque, le Iene l'hanno un po' sputato. Sì, cioè noi ovviamente siamo andati a, grazie per aver citato le fonti, siamo andati a rubasse in servizio delle Iene de merda su Italia 1 tre giorni fa, che comunque sapevano tutti, a proposito dei cigni che muffiscono perché non siamo abbastanza solerti. Comunque questo è un cignone andato in onda di recente e pare che cioè lì nel filmato si vede questa che chiede scusa, diciamo, fa tutto un video di scuse a Madame dicendo vabbè è andata così, dai, finale ti ho rubato spagnolo, il pezzo, ma tutto a posto, ti ho rubato il pezzo, ma dai, alla fine una fase una razza, dai, fatta la pia bene. E una volta veniva con molti più chilometri in mezzo fra un paese e l'altro, invece mo ci si prova in tutte le maniere, per questo ci pensiamo a una manovra pubblicitaria, ma chissà torneremo con Cigna a indagare su questa cosa. Nel frattempo è arrivato il momento di salutarci, credo. Questa puntata incredibile la troviamo sempre in podcast sul sito fortevenestino.net /radioforte, troppo bravo, come sbiascico io, nessuno. Posso dire una cosa che non diciamo mai, importantissima, prego. È che la puntata, oltre a trovarla appunto in podcast, la potete riascoltare prestissimo, domani mattina, anche alle 10. Oh, incredibile. Hai dato un orario. Voi sapete, dovete sapere, veramente non l'abbiamo forse mai detto, che noi la domenica andiamo in replica automatica, cioè non dovete solo sintonizzarvi su Radio Forte, ci trovate alle 10, riparte la replica di questa bellissima, come dicevi, roboante puntata. Oggi è tutto roboante. Quindi possiamo dire anche quindi, oltre ai prodigi del podcast, ci c'è appunto anche il prodigio della replica. Possiamo dire buon pranzo a chi sta chiudendo adesso, che è mezzogiorno, che quindi grandi, buon pranzo. Ma allora sì, allora, bella domenica. Buon ci sentiamo domenica. Fra pochissime settimane, il tempo di fare un bambino e torniamo. Yeah! Ciao! Ciao! Ciao ciao!